per mamma, che per te non ho pietà, che per te non ho pietà, se per me non sei amor, no, non ho pietà, se per me non sei amor, non sei amor, se senti amor, avrò pietà. Superba, superba, va Gesù, superba, va, che non ho in te pietà, se per me non senti amor, non senti amor. Per me non senti